con me ti perdi chi sei. Ti spogli di tutto, cadi come l'autunno. Se parli di noi, tu guardi soli i miei nei, come se fossi la matrice di tutti gli errori. E non è vero che non mi riguardi più, che non mi sfiora l'idea che non sei più tu, che certe cose a te fanno male, come un tuffo nel mare con un freddo glaciale. Tu sei sempre quella che non spegne la TV per addormentarsi. Tu quella che se è triste guarda in su per non pensarci. Tu, tu, tu, sei quella che non sbaglia, che non cade mai, quasi mai. Tu che meriti tempo, tu che riempi gli spazi, che ti lamenti per il freddo e non so più scaldarti. Tu che fine settimana gireresti il mondo a piedi, solo fuori casa ti ricordi chi eri. E non è detto che siamo sbagliati noi, che questo tempo ci spegnerà prima o poi, che certe cose anche a me fanno male, come un tuffo nel mare con un freddo glaciale. Tu sei sempre quella che non spegne la TV per addormentarsi. Quella che se è triste guarda in su per non pensarci. Tu, tu, tu, sei quella che non sbaglia, che non cade mai. Tu che sei il sole quando c'è neve, serve calore per ripararsi dal freddo glaciale. Volersi bene, tu lo sai fare, senza sprecare parole. Tu sei sempre quella che non spegne la TV per addormentarsi. Rimani quella che se è triste guarda in su per non pensarci. Tu,